sempre a fianco a me. Sì, sicura di st'amore, come io so sicura a te. O prima l'ultimo sarai per me. Quante notte non te becche, non te sento in tasti braccia, non te vado queste facce, non tasti qui mi e porta in braccio a me. Scetana me sti svolna, me fai ghiani a leve te. Oi vita, oi vita mia, oi cuore, e chi sta cuore, si stava, o prima amore, o prima l'ultima sarai per me. Contente, io non penso che a te solo, non pensiero me consuolo, che tu pensi solamente a me. Ah, che bella tutta bella, non è mai più bella te. Amore, o prima l'ultima sarai per me.